positivo. Dai, così già avere così, tutti fumano e ce ne sono pochi che non fumano. Quindi allora come dentro al filtro, siamo tutti di una di tutti quanti anche in posti, non avevamo una storia, la conosco da anni, no? Allora, sì, ci sono vicino a me, ma fumi i piedi brutto, cazzo, non ammazzendi, sicuramente senza il filtro, e non la giurassi, che truccia so, sono disparati mi già Mario, perché fumo il stipendio e 15 libri di aprile, 45 giorni devo aspettare. Eccomi qua, sono rientrato, come vedi te, invece mangia con il butto. Ma fai quando tu l'hai mangiato, ma te lo strusso. E un tempo si faceva così, quando io decido di fare la radio la faccio e non devo mancare. Ho già detto che da oggi si fa radio qua in questo canale e vedrò di fare l'impossibile per portare dentro tutti quelli che sono in ascolto e che non vogliono parlare più per vari motivi che non sto a elencare qua. Comunque, io ho già cenato, sono nuovamente qua e si cerca di mandare avanti la baracca. Ok, devi dare spazio a chi vuole entrare, sempre nelle dovute maniere. Ok, a te Mario. Gappa, noi stavamo parlando con Luca del suo nuovo lavoro, a vedere che impressione ha avuto. E niente, già, e purtroppo è così. Se non si lavora non si mangia. C'era Cialentano e diceva chi non lavora non fa l'amore. Però mi pare che hanno travaglia non mangia, se no è che andato a fare il cattone. Ma vero è? Non l'abbiamo sentito, non ho perso nessun filo del discorso, tutto positivo, nessun problema. Stavo ascoltando. No, purtroppo quando uno arriva ad entrare così in questo momento è chiaro che lo stipendio arriva sempre 30 giorni dopo, quindi bisogna mantenere la calma e mantenere il rapporto di lavoro equo per far sì che tutto sia tranquillo e non mi va, non è che sta appena. Come mi sentite? Tu mi senti bene, ok. Per Paolo, insomma, non mi ha dato risposta perché ce l'ha portata più, vai per quanto. La risposta ti ha 23. Ti ho chiesto anche, ma sei tu, perché c'è stato anche. E anche voi l'hai combinato. Sì, Roberto. No, qua va tutto bene, ok. Niente da dire, lavorazione perfetta, pulita, va bene così. Che fa? Aspetta, non è che se non facciamo per accontentarmi, se c'è qualcosa che non va me lo dici, qua si può fare qualche regolazione, forse mette a confermare veramente che va bene, ok, la lasci così, io non tocco niente. Chi mi ha arrivato a fondo scala, cosa ho fatto? Oh, ho agganciato l'MC60, non la 48. Io ti devo fare la mazza. Sono contento di aver fatto l'MC60 al K48. Era ora. Se vai più forte il tuo, avevo 60, picchi positivi. Vorrei avere number one in zona, no comment. Buonasera a tutti, mi accompagno, scusate.